come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui alle 18.33, 800 24 00 24, il numero per chiamarci in diretta con la Zanzara anche oggi fino alle 20.45 per sentire i vostri commenti in diretta. SMS 349-238-6666, la Zanzara @radio24.it. Andiamo subito a sentire i titoli del TG2. Una prima tregua col governo, cresce l'allarme attentato in vista delle elezioni del 20 agosto, Frattini, missione italiana, verifica dopo il voto. Dramma familiare nel Bresciano, una donna di 37 anni uccisa in casa con un colpo di fucile all'addome, caccia al convivente che prima confessa al figlio 19enne e poi si dà alla fuga. Massa sta meglio, ma servono altri accertamenti. Forse una lieve lesione al nervo ottico. I medici, tornerà a correre, speriamo di sì. Oggi la visita di Montezemolo. Festa con tanto di torta in Thailandia per il panda concepito con l'inseminazione artificiale. Compie 2 mesi, i genitori non avevano nessuna intenzione di accoppiarsi. Nei titoli del TG2 pochissimi spunti, secondo me, dovremmo un po' ripescare tra le polemiche, tra le cose dette e ripetute nel weekend appena trascorso. Andiamo subito a sentire i titoli di Studio Aperto. Delitto in Valtrompia, nel Bresciano, trovata morta in casa una donna di 37 anni. Ad ucciderla una fucilata all'addome. I carabinieri stanno cercando l'ex convivente della vittima. L'uomo, prima di fuggire, ha confessato a suo figlio: sì, l'ho ammazzata io. Muore un neonato subito dopo il parto cesareo all'ospedale di San Benedetto del Tronto. La madre, 26 anni, venerdì aveva chiesto invano un nuovo monitoraggio, ma era stata rimandata a casa. Il nonno accusa: colpa dei ritardi, devono pagare. Afghanistan, il governo di Kabul sigla la tregua per le elezioni con le tribù del nord, ma in Italia la politica si divide. Un sondaggio rivela la fiducia nel premier Berlusconi è al 68,2%. Molti gli italiani che apprezzano la sua capacità di... Eccoci qui dopo questo sondaggio lanciato da Studio Aperto. Non so se avete sentito, probabilmente sì, durante diciamo l'ultima settimana, parlare di una cosa fantasmagorica: il partito del Sud. Io sfido chiunque di voi a dirmi: beh, secondo me questo partito del Sud serve a questo, serve a quest'altro. Insomma, avete capito qualcosa da questa discussione tutta politica tra leader dei partiti sul futuro partito del Sud, la lotta interna al PDL, adesso l'intervento di Berlusconi che promette di sbloccare alcuni fondi, eccetera, eccetera. Tanto che io mi sono fatto una personale convinzione che questa storia del partito del Sud è... Apriamo il nostro solito dibattito. Chi vuol parlare? Lei, Filini? Calboni? Scusi, posso dire una parola io? Ah, la nostra merdaccia! Venga, venga, Fantocci, si accomodi. Finalmente ha trovato le parole. Chissà quale profondo giudizio estetico avrà maturato in tutti questi anni. Dica, dica. Allora? Per me... La corazzata Potëmkin è una cagata pazzesca! Bisogna dire che anche secondo me il futuro o il grande dibattuto, il grande mistero partito dal Sud di questa settimana è una cagata pazzesca. È un'idea che non sta né in cielo né in terra. Prendo da un titolo di un quotidiano di oggi, da un commento: il denaro non basta mai se ci sono politici spreconi, e dunque c'è la favola dei soldi che non arrivano al Sud, mentre ne sono arrivati talmente tanti che si poteva ricostruire l'intero Sud, penso 3 o 4 volte. Dove andiamo? Un'altra delle polemiche, anzi no, a proposito del famoso partito del Sud, qualcuno mi ha ripescato un politico calabrese splendidamente interpretato da Antonio Albanese. La recente crisi politica richiede decisioni drastiche all'interno della coalizione. Cazzo, c'è fermento, cazzo, c'è dibattito, ci sono proposte nuove. Bisogna rilanciare il Sud. Sarebbe anche ora. Io personalmente ho deciso di non perdere tempo e di formare un mio movimento politico. Ma va? Si chiamerà il pilu delle libertà. Applausi. Come è accattivante. Vote. La Calabria potrà così contare sul rilancio dell'economia. Sì. La regione ha già delle indubbie attrattive. I montagni e la costa, il mare e le campagne sono il fiore all'occhiello della regione. Colpisce però lo straniero in terra di Calabria, non solo lo scoglio e la sabbia, non solo la quercia e il bergamotto, ma anche il tipico pilastro di cemento armato e la folcloristica soletta catramata. Quale folcloristica? Non sono bellezze locali. Qui lo straniero avverte subito come lo scrosciante torrente si sposi perfettamente col placido scarico fognare abusivo così caratteristico. Okay. Con un odore e qui ci aggiungerei cazzo, io. D'altra parte, come sottolineare, se non in questo modo scherzoso, l'ennesima discussione intorno all'idea, non dico di un partito del Sud, che è un'idea vecchissima, ma della lamentela continua e usurata di un Sud abbandonato e negletto. Bisogna affidarsi a queste cose, alla cagata pazzesca di Fantozzi, accetto la qualunque, sentiamone un altro, eh. Poi aggiuntivamente, affettivamente, spessatamente non è tutto. Infattamente bisogna ricordare i piatti prelibati della Calabria. La spatola fritta e la parmigiana di melanzane. I pomodori sott'olio e i fichi secchi. L'insaccato di maiale e la capra cotta. L'aquilotto con le patate e il delfino alla ghiotta. Acqui e delfini non si cacciano, sono specie protette. Sì, l'aquilotto non è un piccione. Solo un pilo è specie protetta. Tutto il resto a disposizione del nativo calabrese. Tornando a cose serie, io credo di non sbagliare se dico che le sontuose costruzioni col mattone forato a vista, tutti quei bei ponteggi con i loro delicati ricami di ferro filato contribuiscono a fare della nostra architettura un esempio per le civiltà future, cazzo io! E cazzo vuole un applauso! E va bene, 800 24 00 24, scrive giustamente l'amico Nicola Porro questa mattina sul giornale, se il problema del Sud si potesse risolvere con i quattrini pubblici, sarebbe stato risolto già da decenni. Il flusso di finanziamenti pubblici che sono arrivati nel nostro mezzogiorno è stato immenso e continua a essere cospicuo. Un'altra polemica assurda creata dalla Lega nelle ultime ore riguarda l'Afghanistan, tanto che mi sono ricordato che è da un pezzo che non si parlava di Afghanistan e pensavamo tutti di esserci lasciati alle spalle un periodo che io definisco molto buio, in cui c'era l'estrema sinistra al governo e in cui periodo in cui si dibatteva dell'Afghanistan, andiamocene, restiamo, la guerra, l'orrore della guerra, i morti, eccetera. Sentite. L'obiettivo del ritiro dei soldati italiani dall'Afghanistan è un obiettivo che dobbiamo perseguire. Quando muore una persona ci pare giusto dire al mondo: vedete che roba è la guerra? È una cosa infame, indegna, quindi ritiriamoci, andiamocene via. La questione dell'Afghanistan non è una piccola cosa, è la guerra su cui è nato il movimento pacifista in Italia. Porterei a casa tutti. Prima di tutto costa un sacco di soldi e diciamo, io visto i risultati, visto i costi, ci penserei su un po'. Io se fosse possibile me li porterei a casa tutti. Beh, Bossi, in questo caso, come li avete sentiti nell'ordine, non so se li avete riconosciuti, quelle voci che sembrano venire addirittura dall'aldilà, da un'altra epoca, sono le voci di Paolo Cento, di Turigliatto, ricordate Turigliatto che fu un dissidente di Rifondazione Comunista che si batteva per il ritiro dall'Afghanistan tanto da minacciare la sopravvivenza del governo Prodi. Poi c'era Di Liberto, Manuela Palermi, tutti questi esponenti dell'estrema sinistra che insomma sembravamo aver dimenticato. E invece è arrivato Bossi, torniamo tutti a casa, io quei ragazzi li porterei a casa, più o meno gli stessi toni. Ancora peggio, questa mattina su Repubblica, Roberto Calderoli, nemmeno uno, un esponente dei centri sociali recentemente se n'è uscito in questo modo, dando la responsabilità di alcune guerre all'Occidente, gli vendiamo troppe armi, gli italiani stanno col Senatur, via anche da Libano e Balcani, il terrorismo è finanziato da paesi ricchi, senza le armi dell'Occidente cosa sarebbe dell'Africa, di paesi come l'Afghanistan e la Somalia? Mi arrabbio quando penso ai tanti casini che abbiamo creato in passato e all'ipocrisia dell'Occidente. Che guerre farebbero senza le nostre armi? Bisogna andare subito via dal Libano e dai Balcani. Beh, davvero avevamo nostalgia di queste cose, di una discussione così interessante sull'Occidente, le armi e le guerre in Africa e in Asia. 800 24 00 24, andiamo a sentire le ultime parole famose pronunciate da un ex magistrato, ex poi magistrato, il neo parlamentare europeo dell'Italia dei Valori, De Magistris. A marzo, prima del confronto della tensione europea, aveva detto: nel momento in cui sarò eletto, ma anche se non dovesse essere eletto, lascio la magistratura per sempre, un impegno politico, costruire un progetto per il paese insieme alla parte migliore della società civile. Si scopre adesso che invece De Magistris ha chiesto al Consiglio Superiore della Magistratura di essere collocato in aspettativa per mandato parlamentare europeo a decorrere dal 14 luglio 2009 per tutta la durata del mandato stesso. Dunque sembra che De Magistris non si voglia più dimettere nonostante le elezioni, ma si voglia mettere in aspettativa fino alla fine del suo mandato. Però insomma, carta canta da questo punto di vista, soprattutto abbiamo sentito più volte le parole di De Magistris, che giurava e spergiurava di potersi dimettere subito dopo l'elezione. Non subito, non subito durante la campagna elettorale, però un momento dopo aveva detto: mi dimetterò. Di Pietro Pacifista lo vogliamo sentire, perché anche qui una cosa nuova, non l'avevo mai sentita. A proposito dell'Afghanistan, la democrazia non si esporta sulle orme di Calderoli. Di Pietro: meglio tardi che mai. Noi dell'Italia dei Valori da sempre siamo stati contrari a fare le guerre. Lo abbiamo detto per l'Iraq, lo ribadiamo per l'Afghanistan, dove le buone intenzioni si sono infrante su quel che è una guerra in atto. Beh, insomma, un Di Pietro che anch'io non lo ricordavo in questo modo. Nel 2006, quando era al governo, sostenne più volte la missione in Afghanistan. Adesso invece dice: la democrazia non si esporta. Prima di chiudere, Fanzaga, Livio Fanzaga. È vero, confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei. Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori. Beh, Don Livio Fanzaga questa mattina sull'Afghanistan dice: ma in fin dei conti si muore di più sulle strade italiane. Di nuovo all'ordine del giorno, naturalmente, la presenza italiana in Afghanistan, in quanto nei giorni scorsi ci sono stati alcuni feriti lievi. Comunque una settimana fa c'era stato un morto. Comunque sia, cari amici, la presenza in Afghanistan è una presenza in luoghi estremamente pericolosi. Non c'è da meravigliarsi se arrivano notizie a volte allarmanti, però a guardare bene, quando si va in macchina sulla strada, i pericoli sono ben maggiori. Questa è straordinaria: quando si va in macchina per la strada, i pericoli sono ben maggiori che in Afghanistan. Beh, bisogna vedere dai punti di vista, naturalmente. Certo, non per i soldati in Afghanistan. Eccoci qua alle 18:47, 800 24 00 24, con Peppino Caldarola. Buonasera. Buonasera. Caldarola, uomo del sud, no? Fino a prova contraria. Di nascita, sì, sicuramente. Allora, io penso che questa discussione sul cosiddetto partito del sud non interessi, sono molto drastico, non interessi nemmeno la gente del sud, che abita al sud, perché primo è abbastanza incomprensibile, secondo non si vede che sbocco possa avere, terzo appare una lotta, insomma, interna in questo caso al PDL, e soprattutto sembra un appello al ministro Tremonti, insomma, vogliamo più quattrini, la solita litania dei quattrini che mancano al sud e in realtà non sono mai mancati, o no? O sono troppo drastico io? No, io penso, sono un poco più preoccupato per questa storia del partito del sud, nel senso che vedo che si sono messi in moto tre forze, quella legata al presidente della giunta regionale siciliana Lombardo, che punta al vero e proprio partito del sud, e poi da un lato Miccichè, dall'altro Antonio Bassolino, che hanno in testa, diciamo, una lobby per influenzare i loro rispettivi partiti. Ora è chiaro che c'è un problema, c'è sicuramente un grave problema meridionale. È chiaro che in questi anni, diciamo, si è parlato poco e soprattutto si è parlato male del sud. Ma il rischio che venga fuori una tentazione di fare al sud quello che la Lega ha fatto al nord non la sottovaluterei, perché può cogliere un elettorato stanco, questo sì. Dunque sicuramente c'è la possibilità che quella cosa si possa trasformare in un movimento politico che trova anche del consenso, no? Sì, io penso di sì. Lei tenga conto che sul sud ormai insistono parecchie forze politiche, a parte diciamo questo fantomatico partito del sud, diciamo ha una vocazione ormai prevalentemente meridionale, lo stesso PD, che tranne le regioni rosse, essendo poco più che una rappresentanza di qualche percentuale a nord, diciamo è un partito centro-meridionale, e centro-meridionale in gran parte anche ormai il PDL, sono partiti meridionali, il partito di Pietro e l'UDC di Cassini, quindi abbiamo sul mercato elettorale del sud molte forze che cercano di infilarsi. Il rischio del partito del sud è il rischio che lasci il mezzogiorno dalle stesse condizioni di prima, perché parliamoci chiaro, il problema del sud è un problema poi anche di classi dirigenti del sud, non mi vengano a dire che può la rinascita del sud può partire da personaggi come quelli che io ho citato, che sono fondamentalmente dei corresponsabili delle condizioni in cui il sud versa. Infatti c'è un paradosso, cioè il partito del sud, il cosiddetto partito del sud, il fantomatico partito del sud, viene portato avanti, almeno da quello che si legge sui giornali, da personaggi che sono assolutamente, come ha detto lei, corresponsabili, per esempio nel campo della sanità, no? Proprio nei giorni in cui viene proposto il Partito del Sud escono i dati sullo sforamento del deficit sanitario, che sono drammatici soprattutto al Sud, certo non per responsabilità di Tremonti e della Lega. No, non c'entra niente né Tremonti né la Lega. La spesa sanitaria nel Sud è esplosa in un modo intollerabile, ormai c'è persino delle figure sociali nuove, questi che vengono chiamati imprenditori, ma sono degli intermediari di affari che lavorano al confine fra il privato e il pubblico, organizzando diciamo l'afflusso di denaro pubblico verso il privato. Ci sono baronie universitarie, cioè tutta una classe dirigente che oggi si vuole mettere la testa nel sud per ricontrattare la propria sopravvivenza, e questo non funziona, non aiuta il sud, perché la maledizione del sud sono state le sue classi dirigenti, e quindi nessuna battaglia meridionalista si può fare, può diventare una vera battaglia nazionale senza porsi il problema della sostituzione delle classi dirigenti meridionali. Un'ultimissima cosa voglio chiedere su una polemica recentissima delle ultime ore sull'Afghanistan, perché io ho iniziato la trasmissione dicendo Bossi quasi come no, si ricorda, sembravano spariti per sempre, Palermi, Turigliatto, Cento, sentivamo la nostalgia forse di un impeto pacifista, no? Ho visto addirittura in agenzia di stampa che il PDC o PCD, non so bene come vanno messe le lettere, ha proposto a Bossi una manifestazione nazionale, quindi questo è fantastico. Che vedrebbe assieme la Lega e il Partito dei Comunisti Italiani di Liberta, è fantastico, devo dire. Furono insieme anche durante la dittatura di Milosevic. È vero, questo quindi è vero. C'è un precedente. Ma insomma, mi sembra che siano sortite che così estive, no? Quelle. Certo, se leggere di Calderoli che dice che va un po' al di là di Bossi, perché Bossi insomma ha detto una cosa, magari l'ha detta altre volte, non ce ne siamo nemmeno accorti. Calderoli addirittura ha fatto tutto un ragionamento suo sulla responsabilità dell'Occidente nelle guerre, vendiamo le armi, una cosa che nemmeno un esponente più estremista dei centri sociali ormai sostiene. Sì, ma infatti questo dovrebbe spingerci a indagare anche sulla, diciamo, sulla pedigree culturale di alcuni nostri dirigenti, talvolta di governo, talvolta di opposizione. Adesso non voglio mettere la croce sulla spalla del leghista Calderoli, però sono ragionamenti che non hanno né capo né coda, perché qui stiamo parlando di questioni purtroppo un po' più serie della questione dei mercanti d'armi. Stiamo parlando in Afghanistan di una battaglia per la libertà che l'Occidente diciamo non può che condurre assieme alle forze che lì vogliono vivere meglio di come li abbiano fatti ieri i talebani. Stiamo scherzando. Che guerre farebbero senza le nostre armi? Questa è la frase spettacolare nell'intervista oggi a Repubblica di Calderoli. La ringrazio. Grazie a Peppino Calderoli di essere stato con noi, con un sottofondo di cicale, credo, in qualche località balneare. Sì, Palamone. Spettacolo. Arrivederci, a risentirci. 18:53, Giacomo da Messina, proprio dal sud ci chiama. Giacomo. Sì, buonasera, è un piacere parlare con lei Cruciani, perché l'ascolto spesso. Dica, grazie. Dunque, io sono una persona, proprio sono un ingegnere, che da dirigente di impresa del nord, che si occupava di programmi di ricerca e innovazione, decide decurtandosi tutto, di ritornare in Sicilia. Opera, promuove dei progetti di ricerca, che arriva, uno di cui la prima macchina a idrogeno e minibus elettrico idrogeno, arriva primo della graduatoria dei progetti PIA Innovazione proprio per il Sud, finanziati con i fondi europei. Questo progetto salta nonostante il finanziamento a causa della insidienza, diciamo, della classe dirigente, diciamo, locale, perché era un'azienda pubblica. Decido di occuparmi di queste cose, vado alla programmazione, vedo ed effettivamente è vero che c'è un problema di progettualità e di, diciamo, non efficace uso delle risorse, che poi non sono così tante come si dice, ma è anche vero che tutti i fondi per le aree sottoutilizzate destinate per legge al Sud in finanziari e fondi europei sono utilizzati in questo momento per pagare la crisi, e Tremonti li sta utilizzando per questo, e questa è la causa vera del problema, cioè che in questo periodo di crisi l'economia della regione siciliana è legata al 60% dai fondi pubblici, questo è un fatto, non arrivando rendono impossibile anche la quotidianità. Sì, d'accordo Giacomo, posto che questo sia un problema reale, che ci sia un problema in questo momento di distribuzione di denaro pubblico al Sud, ma bisogna fare un partito per fare una cosa di questo tipo? Beh, ci vuol dire un pochino grazie dopo tutti gli insulti dalle meridionali. Cioè, no, ho capito, ma bisogna fare un partito per rilanciare queste cose, per fare un'azione di lobby? A me non sembra. No. Però, veda, stanno alzando il prezzo. Ma stanno chi? Stanno dei voto meridionali. La classe dirigente meridionale, fino ad ora sono costati poco i voti dei meridionali, tutto sommato. Sono costati poco, stanno alzando il prezzo, io non dico che poi li utilizzeranno correttamente. Guardi, lei fa passare l'idea che fino adesso il Sud sia stato, dal punto di vista del denaro pubblico versato alle amministrazioni locali per ripianare i debiti, qualcosa di residuale. Non è così. In questo governo sì. Non è così, ma non è così nemmeno per questo governo. Se perché? Poi andiamo a guardare le grandi perché? Cifre, se andiamo a guardare le grandi cifre, non è nemmeno così. E poi ripeto, mettersi a discutere di tagli, di quanti soldi prima e quanti soldi dopo, mi sembra una discussione abbastanza inutile. Però guardi, è la base da cui nasce questo. Poi ci saranno tante altre motivazioni. No, ma lei fa bene a dire che sicuramente è questa, cioè la richiesta di più quattrini. Sicuramente, però è anche vero, e concordo con quello che diceva Calderola, che la classe dirigente locale non si può ergere a dire ora li gestiamo noi, però qualcosa bisogna fare. Il ponte facciamolo, porca miseria facciamolo, qualcosa facciamola, sono solo annunci. Io sono di Messina, lo dico volentieri. Anche se a Messina so che c'è una maggioranza della popolazione, sembra dai sondaggi invece che sia contro il ponte. Vabbè. Il sondaggio non l'hanno mai fatto. No, è vero, dicono. Un sondaggio vero, un referendum non è stato fatto. Io scommetto che qui almeno il 60% è favorevole, nella città che è più sfavorevole, che è Messina, il resto della Sicilia è favorevole. Ma al di là di questo, dico, è mai possibile, dico, o ponte, o aeroporti, o strade, o fare venire veramente... Quello è vero, le infrastrutture sono importanti, Giacomo, la ringrazio. Detto questo, ci si poteva pensare anche prima, con tutti i soldi che sono stati dati al Sud, no? In questi anni, evidentemente sperperati in altre cose. La ringrazio, Luca, provincia di Caserta. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Senta, io intervenivo per agganciarmi un po' all'argomento della serata sul Partito del Sud e sui finanziamenti che sono stati e che vengono erogati per il Sud. Non mi trovo d'accordo con l'intervento dell'ingegnere, perché da un lato concordo con lei che il Partito del Sud è una cosa assolutamente inutile, sarebbe semplicemente un altro modo per eventualmente dividersi i voti. Dall'altro invece faccio una provocazione, e cioè secondo me bisognerebbe smettere di dare fondi al Sud in modo così diffuso, così largo, soprattutto a pioggia, perché per il tipo di lavoro che faccio sto ormai a contatto da 10 anni con gli imprenditori, almeno di una buona parte della Campania. Spesso e troppo spesso mi sono trovato davanti aziende che hanno usufruito che hanno magari aperto sfruttando i fondi del Sud, che sono stati destinati al Sud, e invece di creare occupazione hanno semplicemente arricchito le tasche di chi ha beneficiato di questi fondi. Credo che bisognerebbe dare la possibilità alle tante brave persone, buone menti che ci sono nei nostri territori, di esprimere e valorizzare le proprie competenze, ma confrontandosi con il mercato, e quindi non puntando a fare l'imprenditore con i soldi dello Stato in questo caso. La ringrazio Luca di questo intervento. Andiamo a Roma da Roberto, prima del GR delle 19. Roberto, prego. Sì, buonasera. Volevo parlare del problema dell'Afghanistan. Sì, dei nuovi pacifisti leghisti. Ma non è tanto un problema di pacifisti, è un problema di riflettere su cosa ci dice la storia, perché la storia è la nostra maestra. E la storia dice che gli stati unitari nascono dall'interno, cioè abbiamo visto cosa è accaduto in Italia, cosa è accaduto in Germania, in Spagna, cioè deve partire dal basso. Cioè, lei vuol dire che la guerra che stiamo facendo in Afghanistan è inutile? Perché... La guerra, diciamo l'ambizione di creare uno Stato nazionale laddove esistono etnie tra di loro diversissime, ci hanno provato gli inglesi. E dunque Roberto, senza andare troppo al di là perché non abbiamo tempo, inutile. E dunque dobbiamo andare via, ha ragione Bossi, dobbiamo andare via. Tutti devono andare via perché non serve assolutamente a niente, se non a far pagare, a far passare il gasdotto. Ma gli interessi occidentali sono solo questi. A noi non interessa niente delle donne che lì non hanno diritto di cittadinanza. Dunque via subito, perché il nostro unico interesse è quello economico, lei dice. Va bene, andiamo a sentire i titoli del TG3. Scontro sulla missione militare in Afghanistan, la proposta di ritiro divide maggioranza e opposizione, Frattini il nostro ruolo è decisivo. Berlusconi lavora ad un piano per il sud, Lombardo bene ma vigiliamo, la Lega basta coi piagnoni, il PD il governo ha tradito il mezzogiorno. Obama alla vigilia del vertice con la Cina chiede un'alleanza per risolvere i problemi del mondo, la priorità ambiente ed economia. Un italiano morto a Buenos Aires per la nuova influenza, la figlia accusa l'ospedale argentino, non hanno capito la gravità. Scarcerati due arrestati dopo gli scontri tra ronde e Hamas, ma torna a esplodere la polemica sulla sicurezza affidata ai cittadini. Carrozze ferroviarie all'amianto abbandonate a Milano vicino a Luna Park e alle abitazioni, i sigilli sono ormai arrugginiti e senza controllo. Atitec, la società all'Italia che fa manutenzione, non paga gli stipendi. Rischio chiusura a fine mese. Blocco dei lavoratori a Capodichino. Morto a New York, Cunningham, il coreografo americano che rivoluzionò la danza e portò in scena la libertà. Aveva 90 anni. Avete sentito in uno dei titoli del TG3 il governo ha tradito il mezzogiorno. Quante volte? Magari nei, non so, nei 30 anni, nei passati 30-35 anni avete sentito queste parole. L'opposizione di turno che accusa il governo di turno di aver tradito il mezzogiorno. Tradimento di cosa poi? Sky TG24. Missioni all'estero, tensione nella maggioranza, la Lega via dall'Afghanistan. Divisa l'opposizione, Franceschini no al ritiro, Di Pietro meglio tardi che mai. Piano per il sud, Lombardo cauto, bene le parole di Berlusconi ma servono i fatti. USA-Cina, appello di Obama a Pechino, lavoriamo insieme su clima e crescita. Francia, il presidente Sarkozy lascia l'ospedale, i medici nessun problema al cuore. Sardegna cessata l'emergenza incendi, danni per 80 milioni di euro. Massa polemiche dopo gli scontri di sabato, il sindaco, noi le ronde non le vogliamo. Bianchini eseguito il prelievo salivale, tra 20 giorni il risultato del DNA. Blitz notturni a caccia di alcolici, denunciati a Torino, 6 ragazzi minorenni. Felipe Massa è cosciente e risponde ai medici, ma si temono danni al nervo ottico. La recente crisi politica richiede decisioni drastiche all'interno della coalizione. C'è fermento, cazzo, c'è dibattito, ci sono proposte nuove. Bisogna rilanciare il Sud. Sarebbe anche ora. Io personalmente ho deciso di non perdere tempo e di formare un mio movimento politico. Ma va? Si chiamerà il Pilu delle Libertà. Applausi. Il nome è accattivante. Mute. La Calabria potrà così contare sul rilancio dell'economia. Sì. La regione ha già delle indubbie attrattive. Tipo? I montagni e la costa, il mare e le campagne sono il fiore all'occhiello della regione. Colpisce però lo straniero in terra di Calabria, non solo lo scoglio e la sabbia, non solo la quercia e il bergamotto, ma anche il tipico pilastro di cemento armato e la folcloristica soletta catramata. Quale folcloristica? Non sono bellezze locali. Qui lo straniero avverte subito come lo scrosciante torrente si sposi perfettamente col placido scarico fognare abusivo così caratteristico. Con un odore e qui ci aggiungerei cazzo cazzo cazzo io. come informarvi di questa vicenda del Partito del Sud se non facendovi ascoltare appunto uno straordinario Antonio Albanese, politico onorevole meridionale, in particolare calabrese, che vuole lanciare il Partito del Sud. Io non sono ancora riuscito a capire cosa vogliono questi politici che sostengono il nuovo partito meridionalista. 800 24 00 24, naturalmente datemi una mano voi a capire, se non la richiesta di altri quattrini per il Sud, oltre a quelli che sono già arrivati e sono tanti nel corso degli ultimi 40 anni. Altra polemica, subito spenta o forse no, ma che dà l'idea di quello che è la Lega oggi, una sorta di scheggia impazzita in cui si può dire tutto il contrario di tutto. Bossi che dice: io i nostri soldati in Afghanistan li porterei subito a casa in Italia. Ah, io ho detto solo che devo stare attenti ai troppi morti e poi al costo che è molto alto. Io faccio parte di una coalizione, sto a sentire quel che dice la coalizione, non è che dici io da solo, però se si può trovare una via d'uscita. La Lega, insomma, come i pacifisti, quelli che avevamo sentito soprattutto durante la legislatura, al governo durante la legislatura 2006-2008. Ve li siete scordati? Ve li faccio riascoltare. Turigliatto, lo ricordate? Turigliatto, il mitico Turigliatto, protagonista di lotte sull'Afghanistan contro il governo Prodi. La questione dell'Afghanistan non è una piccola cosa, è la guerra su cui è nato il movimento pacifista in Italia. La costruzione di una seconda base non è una questione urbanistica, ma è un dispositivo. E poi Manuela Palermi, sentite. Quando muore una persona ci pare giusto dire al mondo: vedete che roba è la guerra? È una cosa infame, indegna, quindi ritiriamoci, andiamocene via. Poi continuiamo a stare lì, naturalmente, con i servizi segreti, con l'azione diplomatica, con operazioni di polizia. E insomma, avete sentito alcuni esponenti della sinistra pacifista, più o meno le stesse cose dice oggi, per esempio, Calderoli, ministro per la semplificazione, ma in realtà è ministro un po' di tutto per quello che riguarda la Lega, che a Repubblica dice che bisogna andare via anche dal Libano e dai Balcani. Senza le armi dell'Occidente sarebbe diverso, lo vogliamo dire? L'Occidente ha grandi responsabilità, secondo Calderoli. Grandissime responsabilità. Il Libano e i Balcani intanto lasciamoli. Mi arrabbio quando penso ai tanti casini che abbiamo creato in passato e all'ipocrisia dell'Occidente. Che guerre farebbero senza le nostre armi? Poi rischia l'incidente diplomatico. Mi sono convinto che a foraggiare il terrorismo sono altri, paesi più tranquilli e con le risorse. Allude all'Arabia Saudita? Non faccio casi, altrimenti succede un guaio, ma è più facile sostenere i terroristi per un paese con il petrolio. L'Afghanistan mi sembra come la Somalia, dove siamo andati e poi siamo scappati. Vabbè, insomma, questo è il pensiero di uno dei ministri di questa maggioranza. 800 24 00 24. Invece sentiamo De Magistris, il quale aveva detto, era il 18 marzo, che se ne sarebbe andato dalla magistratura dopo essere stato eletto. Nel momento in cui sarò eletto, ma anche se non dovessi essere eletto, lascio la magistratura per sempre. Un impegno politico, costruire un progetto per il paese insieme alla parte migliore della società civile. Sentiamo adesso sulle ronde, perché avete sentito c'è stato un po' di maretta a Massa, perché si sono scontrati estremisti di destra e estremisti di sinistra. Non si trattava di ronde, perché le ronde in realtà ancora non esistono. Diciamo ronde in fieri, soprattutto quelle organizzate da movimenti di estrema destra, si sono mobilitati quelli di sinistra. Un servizio qualunque, mandate un servizio qualunque. È in corso a Massa il processo per direttissima Samuele Bertoneri e Alessandro Della Malva, i due militanti dei CARC arrestati per oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale in seguito agli incidenti fra ronde opposte verificatisi a Marina di Massa domenica notte. Tutta l'area del Palazzo di Giustizia è presidiata dalle forze dell'ordine, mentre i compagni dei due arrestati stanno manifestando. Su quanto è successo è intervenuto stamani il sindaco di Massa, Roberto Pucci, che ha condannato il comportamento delle due fazioni, sottolineando che sono entrambe estranee al tessuto cittadino. In particolare Pucci ha ricordato di non aver mai dato l'autorizzazione a nessuna ronda, tantomeno a quelle che si definiscono SSS. Purtroppo tutto facilmente prevedibile, le ronde, il comune di Massa nella sua massima istituzione politica, cioè il sindaco, non le vuole, qualcuno le fa lo stesso, gli viene consentito di farlo e questo porta inevitabilmente a questi scontri, naturalmente serve anche qualcuno che abbocchi. Definire SSS le ronde in una provincia decorata di medaglia d'oro nella lotta di liberazione è un'autentica provocazione. Vabbè, insomma, poi naturalmente ci sono accuse di questi carca. A proposito, i due manifestanti sono stati poi scarcerati, accuse da una parte e dall'altra, accuse al governo. Oggi Repubblica, un editoriale di Gad Lerner, questo è il frutto della politica di Maroni sulle ronde. Può darsi che una responsabilità ci sia. Noi dal nostro punto di vista sin dall'inizio diciamo che le ronde non servono a nulla, anche se non bisogna poi criminalizzarle e pensare che in tutti i paesi d'Italia ci saranno scontri come a Massa, frutto soprattutto di due estreme minoranze, come dice peraltro lo stesso sindaco Pucci. A proposito sempre di Afghanistan, c'è la posizione curiosa di Antonio Di Pietro. Voglio tornare un attimo sulla situazione afghana, perché Di Pietro, che non ricordavamo quando era al governo essere un grande pacifista o comunque uno che diceva che bisognava andare via dall'Afghanistan, anzi ha sempre votato per il rifinanziamento della missione, adesso sostiene che la democrazia non si esporta e che bisogna andare via. Meglio tardi che mai. Noi dell'Italia dei Valori da sempre siamo stati contrari a fare le guerre. Lo abbiamo detto per l'Iraq, lo ribadiamo per l'Afghanistan, dove le buone intenzioni si sono infrante su quel che è una guerra in atto. Fanzaga adesso è il momento del nostro direttore di Radio Maria, che oggi si esercita sull'Afghanistan. È vero, confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei. Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori. E andiamo sull'Afghanistan, sentite. Di nuovo all'ordine del giorno, naturalmente, la presenza italiana in Afghanistan, in quanto nei giorni scorsi ci sono stati alcuni feriti lievi. Comunque una settimana fa c'era stato un morto. Comunque sia, cari amici, la presenza in Afghanistan, una presenza in luoghi estremamente pericolosi, non c'è da meravigliarsi se arrivano notizie a volte allarmanti, però a guardare bene, quando si va in macchina sulla strada, i pericoli sono ben maggiori. Beh, naturalmente sono maggiori per chi va in strada, per chi guida, cosa c'entri con l'Afghanistan. Ma noi perdoniamo tutto a padre Fanzaga, il quale poi dice, se non sbaglio, se non ho capito male, perché ogni tanto c'è l'ironia che subentra nel discorso di Fanzaga, dice: non bisogna pagare le multe, resistete finché potete. Il nostro caffeino, dunque oggi il Sole 24 Ore è apparso come con un titolo, con questo titolo: dunque, non pagate una multa su tre, i comuni perdono 500 milioni all'anno per i buchi nella riscossione. E io dico, cari amici, bisogna resistere fino alla morte, perché quando del paradiso si apriranno le porte, tutti i verbali del comune finiranno nel pattume. Questo è spettacolare, eh? Tutti i verbali del comune finiranno nel pattume, naturalmente, quando uno non c'è più, quando uno muore. Dunque portatevi nella tomba tutte le multe, non pagate, tanto fa lo stesso. Grandissimo padre Fanzaga, un'istigazione quasi all'evasione fiscale delle multe, chiamiamola così. Va bene, non vogliamo esagerare. Maurizio da Firenze, buonasera Maurizio. Sì, buonasera, la ringrazio di poter partecipare alla trasmissione. Sì. Volevo dire una cosa, lei prima ha parlato con Calderola. Sì, allora... E non sono d'accordo né con Calderola né con lei, nel senso che Calderola dice la responsabilità è tutta delle classi dirigenti del Sud. Io credo che le classi dirigenti del Sud non si siano messe da sé, probabilmente c'è qualcuno che le ha elette. Sì, anche della famosa società civile del Sud, certamente. Ecco, della società civile del Sud, sono d'accordo. Non sono d'accordo con lei. Sì. Non la sento, e purtroppo c'è la borsa. Torniamo subito, non ci lasci, riprendiamo la comunicazione tra pochissimo. Anzi no, sentiamo un altro ascoltatore, Alessandro da Milano. Buonasera. Eccoci. Dunque, volevo intervenire a proposito dell'idea del Partito del Sud, che mi stuzzica abbastanza come idea. Sì. L'unica cosa che viene da dire è che, considerando che... Beato lei che si fa stuzzicare dal Partito del Sud. No, ma mi faccia fare una considerazione prima. Le tre regioni principali del Meridione sono inquinate pesantemente dalla criminalità organizzata a tutti, sì, i livelli, sia per quanto riguarda le funzioni dirette che le funzioni più o meno indirette, come la sanità e tutti gli altri servizi. Però io dico, se si vuol parlare di fare politica al Sud, bisognerebbe prima sterilizzare la situazione politica attuale, un commissariamento, diciamo, di 5 anni di tutto, dalle amministrazioni comunali, provinciali, regionali, le ASL, i servizi locali. Lei vuole annullare qualsiasi tipo di responsabilità politica in questo momento e commissariamo tutto, dai più piccoli comuni fino alle regioni, ma insomma non si può ragionare in questo modo, Alessandro. Poi aggiuntivamente, affettivamente, spessatamente non è tutto. Infattamente bisogna ricordare i piatti prelibati della Calabria, la spatola fritta e la parmigiana di melanzane, i pomodori sott'olio e i fichi secchi, l'insaccato di maiale e la capra cotta, l'aquilotto con le patate e il delfino alla ghiotta. No. Acqui e delfini non si cacciano, sono specie protette. Sì, l'aquilotto non è un piccione. Solo un bilo è specie protetta, tutto il resto a disposizione del nativo calabrese. Ma tornando a cose serie, io credo di non sbagliare se dico che le sontuose costruzioni col mattone forato a vista, tutti quei bei ponteggi con i loro delicati ricami di ferro filato, contribuiscono a fare della nostra architettura un esempio per le civiltà future, cazzo io! E cazzo vuole un applauso! Il Partito del Sud, il fantasma del Partito del Sud, titoli sui giornali, risposta di Berlusconi a Lombardo... Si farà, non si farà, che cos'è? L'ennesima richiesta di quattrini dal sud al governo centrale? Secondo me sì, però sono aperto ai vostri contributi. Eravamo con Alessandro che ci chiamava da Milano, eccoci qui all'800 24 00 24, prego. No, niente, la mia idea era appunto questa, nel senso che io non credo che si possa fare, cioè si potrebbe fare un partito del sud che, così come il Partito del Nord, faccia preeminentemente gli interessi del Sud, ma prima bisogna risanare la classe politica che è inquinata completamente. Questa era un po' l'idea. Sì, d'accordo, Alessandro, a parte che bisogna vedere caso per caso, non è che si può dire così, si può tranciare di netto tutta la classe politica meridionale. Certo, stupisce, per esempio, come leggevo l'altro giorno su Repubblica, che l'uomo chiamato a risanare la sanità molisana sia lo stesso che è in carica come governatore regionale da 8 anni, dunque evidentemente come responsabile anche della sanità ha contribuito alla sua rovina, quella della sanità molisana, che è sotto gli occhi di tutto. Sto parlando del governatore della Molise, Michele Iorio, che ha ottenuto un nuovo incarico, ne ha già una decina, e ha aggiunto quello di commissario straordinario all'emergenza sanità, insomma alla sanità del Molise, commissario anticrisi. Che volete fare? Secondo Repubblica anche 7 parenti piazzati all'ospedale, dov'è l'ospedale? L'ospedale di Isernia, no? L'ospedale, il famoso ospedale di Isernia. Va bene, Gino da Benevento. Pronto, buonasera. Prego. Dottor Cruciani, grazie per questa opportunità. Io sono un uomo del Sud e come tale volevo intervenire. E credo che il Partito del Sud sia la solita presa in giro per prendere soldi e potere, e già sono bastati i miliardi che sono stati versati per il Sud e non hanno prodotto nulla, ma proprio nulla, e quindi questo è solo l'ennesimo partitino che serve per ottenere soldi e potere. Io gradirei che i giornali si occupassero di tutti i miliardi che sono stati spostati al Sud senza creare occupazione. Questa è poi la vera grande mortificazione da me che sono uomo del Sud, poi di queste cose insomma se ne parla poco, solo in queste occasioni. Questo era il mio piccolo intervento e la voglio ringraziare. La ringrazio, Gino, sono assolutamente d'accordo con lei, mi fa piacere che lei ci chiami da Benevento e pensa che questa nuova invenzione dei politici per trovare spazio e potere, cosa peraltro legittima, sia solo un modo per ottenere più quattrini e dunque più fondi. Poi come vengano gestiti questi fondi è sotto gli occhi di tutti. Pippo dalla provincia di Lucca, buonasera. Buonasera. Prego. Io rivolgevo a lei due osservazioni. La prima è questa: se si tratta, diciamo, la nascita di un eventuale partito del Sud, aspetta che tolgo la parte, no, ecco. Allora, se nasce un partito del Sud non rischia di creare ulteriore confusione nell'elettorato italiano, vista insomma le caratteristiche ormai maggioritarie del nostro sistema politico. E poi una seconda osservazione: il nascere eventuale di un partito del genere, anche alla luce delle prossime riforme federaliste, non potrebbe in qualche modo accentuare delle spinte indipendentiste nel nostro paese, visto anche il ruolo della Lega? Sì, può darsi. Caldarola, che prima abbiamo sentito, ha questa preoccupazione, cioè di spinte centrifughe che in questo caso possono nascere anche forti al sud. Io non lo credo, e comunque c'è sicuramente questa possibilità. La ringrazio. Marco da Grosseto. Marco? Buonasera. Eccoci, buonasera, buonasera, dica. Esportazione della democrazia. Rispondo a un intervento di un ascoltatore precedente, ma anche a un luogo comune di bassa demagogia, secondo me. Io lancio una provocazione, e poi provocazione non è fino a un certo. Ma sull'Afghanistan? Sull'Afghanistan. A parte che secondo me l'economia è anche democrazia, per cui far muovere le cose economiche in Afghanistan o intervenire per motivi economici non è che sia una cosa di per sé negativa. Infatti io sono su questa linea d'onda. Che male c'è provocatoriamente se gli Stati Uniti o chi per loro intervengono con un fine economico, se poi riescono ad esportare democrazia, riescono ad esempio a far espropriare, per così dire, un dittatore e oppure difendere diritti, come può succedere in Afghanistan? Io questa tematica mi fa pensare ad esempio a un economista, Adam Smith, che tutti conoscono, la mano invisibile. Non è dalla benevolenza del macellaio che noi possiamo aspettarci il nostro pasto, ma è dal suo self-interest. Se il self-interest degli Stati Uniti ci porta a questo, chi per lui, ben venga. Se poi il prezzo da pagare è semplicemente un prezzo all'economia statunitense, se poi riusciamo veramente ad espropriare dittatori come Saddam Hussein o a fare qualcosa per i diritti umani. Io la penso come lei. D'altra parte è davvero surreale l'intervista oggi di Calderoli a Repubblica. Parla anche dell'Iraq. In Iraq è stato utile abbattere Saddam? Non era democratico, ma di equilibrio. Dunque Calderoli rivaluta addirittura Saddam Hussein, un uomo di equilibrio Saddam Hussein. Forse occorreva un passaggio più graduale, aiutare l'Iraq a liberarsi di Saddam. Ed è questa invece un'idea condivisa largamente in Italia. Certo, Saddam come uomo di equilibrio, certamente come uomo di equilibrio all'interno della composizione del quadro etnico iracheno, su questo non c'è il minimo dubbio. Però insomma, bisogna vedere poi di che equilibrio si tratta. Ha visto l'arcobaleno Calderoli? Domanda giustamente l'intervistatore, che è Luciano Nigro. Vorrei il coraggio di una discussione. Anch'io sulla Libia non ero entusiasta, ma ha avuto ragione Berlusconi, ha pagato. Cioè, perché dobbiamo accettare un dittatore come Gheddafi, dice in sostanza Calderoli, invece sugli altri siamo un po' più schizzinosi? Antonio da Napoli, buonasera. Buonasera. Prego, Antonio. Allora, io innanzitutto non sono d'accordo con questo cosiddetto partito del Sud. Mi sembra proprio una bufala di quelle proprio gigantesche. Non vedo l'utilità, insomma, di questa cosa. Non si contrappone a niente e non serve a niente. Lei è così drastico, insomma. Quasi come me, stasera sono molto drastico sul Partito del Sud, perché penso che non sia nemmeno una discussione che entra nell'opinione pubblica in maniera forte, nemmeno nell'opinione pubblica meridionale in realtà. Io sono profondamente meridionalista e meridionale, però non la sento come mia, cioè mi sembra qualcosa di artefatto, soltanto per ottenere dei favori, qualche voto in più, perché senz'altro ci sarà l'esagerato che lo darà, come ai bei tempi della Lega quando partì. Però di costruttivo per noi, per la nostra terra, per le nostre persone, non vedo niente di fattibile, di concreto in questa proposta. Forse soltanto un po' di soldi in più da prendere e da sprecare, come sono sprecate quelle fino oggi, in parole povere. Perché il punto è proprio quello: i soldi il Sud ne ha avuti e non si discute. ma qualcuno li ha gestiti e certamente non la popolazione, non la gente. Qualcuno ne ha usato, ne ha abusato, se ne è approfittato, ha fatto quello che credeva, insomma. E nessuno è mai intervenuto, né di sinistra né di destra, a dire la verità, quindi non è un discorso che attiene alla politica dell'uno o dell'altra parte, è proprio soltanto per fregare, nient'altro. Io farei scattare a questo punto Cettola qualunque, il Partito del Sud. No, amici comunque, carissimi, voi che mi desiderate, voi che siete miei amici carissimi. No, assolutamente no. Posso dire di aver agito per il meglio e i risultati un po' si vedono. Ma dove? Mio figlio meno ogni giorno che passa mi somiglia sempre di più. Ah, cazzo, poverino. Cazzo, io. Suo figlio le somiglia sempre più? Anche lui immagina un sud più vicino all'Europa. Anche lui desidera un mondo in cui proliferino pilu e cemento armato. Dove il cemento sia il collante che unisce la società civile, un mondo dove possano arrivare navi cariche di pilu, container di pilu, costruiremo ponti di pilu e soprattuttamente più pilu per tutti. Pilu! Un programma che abbiamo già sentito. Lei è senatore intanto onorevole, lo sappiamo come chiamarla. Tu fatti i cazzatori. Vabbè, era una domanda, eh. Poi cosa? Le manette ai polsi, lei? Tra l'altro, è un souvenir di Taleppo. Sì, è il mio rapporto con la legalità. Diciamo che non è questo proprio il programma più pilu per tutti, sicuramente che è avvezzo alle cose meridionali, anche al linguaggio, sa cosa significa. Non è questo il programma, per carità, del Partito del Sud, però ecco, l'impressione che si dà sicuramente a un certo elettorato invece del Nord Italia e anche a molti politici è quella di un'ennesima richiesta di quattrini. L'unica cosa che non serve al sud sono altri quattrini, un aumento del versamento di soldi che vanno dal centro fino alla periferia meridionale del paese. Fernando da Chieti, buonasera. Buonasera Cruciani, sono perfettamente d'accordo con lei stasera su tutto il fronte del partito e che non serve a niente, e per quanto riguarda i soldi sono idem d'accordo con lei, senza dimenticare che negli anni scorsi, oltre a tutto quello che loro hanno preso, che sono stati versati, non ci dobbiamo dimenticare che per 30 anni il Sud ha preso anche una famosa cassa del Mezzogiorno. Ora, dare, fare un partito e continuare a dare soldi non serve proprio a niente, e i due interlocutori del sud, io sono del centro sud, diciamo più sul centro, che hanno dato la dimostrazione appunto che non servono, sono cose che praticamente al sud non gli serve quella roba lì, tutto qui, niente. Vabbè, Fernando, la ringrazio, lei ha la voce identica a quella di Cettola qualunque che abbiamo sentito prima, la ringrazio. Stefano da Bergamo, Stefano buonasera. Buonasera a lei, gli ascoltatori. Intanto le faccio un complimento per aver scelto Albanese come caricatura di questa situazione, anche se penso che purtroppo la realtà sia più drammatica e sia ben peggiore della caricatura di Albanese, perché per quanto riguarda il sud, oltre l'aspetto diciamo simpatico e comico, c'è un problema sostanziale di morti ammazzati, di tutto quello che ne consegue, quindi la situazione è ben peggiore di quella che viene descritta da... Sì, poi tra l'altro la cosa che mi stupisce è che uno di questi leader o presunti tali del futuro e fantasmagorico Partito del Sud è uno che ha avuto un sacco di responsabilità politiche in Italia, in Sicilia, Gianfranco Miccichè. Io non ho nulla contro Miccichè, è sottosegretario anche di questo governo, dunque è già paradossale questo, che un sottosegretario di questo governo si ribelli al suo governo, insomma è uno dei tanti aspetti un po' curiosi della politica italiana. E poi non è che un uomo di primo pelo, un politico, come dire, venuto adesso, no, è un politico che ha delle responsabilità a partire dagli anni, inizio degli anni 90, Miccichè. Lui adesso, senza sentirsi responsabile di quello che chiama il disastro del Sud, si propone come leader del nuovo Partito del Sud. Un'altra cosa incredibile. Ernesto, allora. No, con chi eravamo? Con Ernesto da Roma, buonasera. Stefano, non c'è più. No, sono Stefano. Ah, eccoci, sì. Poi se mi era consentito, volevo fare un accenno sulla questione dell'Afghanistan, se posso. Prego. Il tema io non penso sia tanto quello di un illusorio tentativo di esportazione della democrazia, perché poi sappiamo che la storia ci insegna che i tempi sono diversi, no, per acquisire determinati concetti. Ma per essere molto terra a terra, realista, io penso ci sia assolutamente necessità di un presidio di quei territori, perché immaginiamoci cosa sarebbe diventato l'Afghanistan con un regime talebano vincitore, vittorioso agli occhi del mondo e degli estremismi, soprattutto l'estremismo islamico nel mondo. Cioè, sarebbe stato un esempio da cercare di moltiplicare laddove ci sono certe situazioni di criticità. Noi dobbiamo invece, secondo me, presidiare quei territori per imporre un concetto di democrazia e di non accettazione di regimi totalitari, soprattutto teocratici. No, io sono d'accordo, Stefano, adesso lei sta volando un po' alto, sta parlando della situazione generale dell'Afghanistan. Quello che stupisce almeno quello che ha stupito me questa intervista incredibile di Calderoli questa mattina, a parte la frase di Bossi di ieri, ma insomma sostenere che un sacco di guerre sono provocate dall'Occidente che vende le armi, non lo ripeto, è una cosa che non sentivo da parecchio tempo. E ancora bisogna ritirarsi dal Libano e dai Balcani, dove invece soprattutto nei Balcani la situazione si è piuttosto stabilizzata. E poi questa rivalutazione di Saddam Hussein, vabbè, ma insomma è il Calderoli estivo forse. Luca Ricolfi, buonasera. Sera. Eccoci qui, sociologo e editorialista della Stampa. Ma a lei pare normale, adesso le faccio fare una considerazione più politica che da studioso e da osservatore di cose politiche, che è questo. Ma le pare possibile che, leggo adesso un'agenzia di Michiche, che scrive a Berlusconi, Michiche che è sottosegretario del governo Berlusconi. Ora fatti, basta deleghe in bianco. Io lucrare potere, no, il governo ha tradito il sud. Bisogna che il governo produca dei fatti e non promesse. Insomma, detto da uno che magari sta all'esterno, un po' ai margini, va bene, ma Michiche non è proprio un politico, insomma, no, di primo pelo. È attualmente anche sottosegretario del governo, dunque dice, è quasi un'ammissione. Fino adesso anch'io sono stato non ho fatto nulla per il sud. Ma è abbastanza divertente, perché mi sembra un'imitazione del governo Prodi. Se lo ricorda quando avevamo i ministri che scendevano in piazza contro il governo di cui facevano parte? Assolutamente, sì. Non faceva abbastanza. Mi sembra la stessa cosa. Cosa vuole? La qualità della politica è questa in Italia. Non c'è nessuna differenza tra destra e sinistra da questo punto di vista. Almeno uno dice, si dimette, diceva, mi dimetto perché il governo non ha fatto nulla per il sud. Già questa no, lui vuole più potere probabilmente. Non gli basta essere sottosegretario, magari vuole un ministero per il mezzogiorno. Chi lo sa. Per carità, si potrebbe arrivare a questo secondo lei in questa storia del Partito del Sud? Ma si può arrivare a tutto. Quando ci sono politici che hanno ambizioni personali e antepongono nettamente queste ambizioni personali al loro credo, si può arrivare a tutto. Si può arrivare alla cassa del mezzogiorno, si può arrivare a un ministero per il mezzogiorno, si può arrivare a fare un partito, non mi stupirei di nulla. Senta, non le sembra che tra l'altro questa idea del Partito del Sud venga fuori, forse non è casuale, forse esagero, sono troppo dietrologo, quando nello stesso tempo vengono resi noti dei dati che riguardano sia la sanità che poi lo stato di alcune università italiane, no? Nei documenti della Gelmini prima e ancora prima del Ministero della Sanità, sì. In cui si vede che in realtà la situazione della sanità e dell'università meridionale, certo non per colpa della Lega e di Tremonti né del governo centrale, è piuttosto deficitaria. Ma secondo me non c'è affatto una coincidenza temporale, cioè è casuale questo fatto dell'uscita dei dati, perché in realtà i dati che stanno uscendo in questi giorni sulla sanità e sull'università, tanto per fare gli esempi più clamorosi, sono arcinoti da anni e anni, sono già usciti sul Sole 24 Ore, sul Corriere, sulla Stampa, sì, sì. Ne abbiamo parlato, eccetera. Quello che è nuovo ed è scatenante, secondo me, è che alcuni politici, soprattutto del Mezzogiorno, si cominciano a sospettare che il governo Berlusconi possa anche fare sul serio. Cioè, questo segnale che ha mandato la Gelmini è potentissimo, questo sulle università, sì. Ed è uno di quei segnali a cui è difficile ribellarsi se non arrampicandosi sugli specchi, cioè gli atenei che hanno funzionato male, che hanno sperperato, certo possono sottilizzare sui criteri, fare di azzeccagarbugli dicendo sono criteri vecchi ma con altri pesi sarebbe andato in un altro modo, ma tutti capiscono che sono buffonate, cioè che in realtà è un'autodifesa che non regge. Poi tenga conto di questo, che la legge sul federalismo fiscale è stata approvata qualche mese fa, ma proprio quest'autunno cominceranno i primi decreti delegati e quindi comincerà a essere implementata. Allora, fino a poco fa io stesso pensavo che questi non facevano sul serio, che non avrebbero fatto nulla. Secondo me adesso qualcuno comincia a temere che qualcosina facciano. E allora si comincia a mandare dei segnali molto chiari, cioè non provateci neanche a fare sul serio, perché qui succede il finimondo. Ecco, a proposito del Partito del Sud, le voglio chiedere, tornando all'argomento principale, c'è in realtà, secondo me no, naturalmente secondo diversi dati che ho letto, un problema di trasferimento di risorse, magari c'è questa storia dei famosi fondi FAS, eccetera. Insomma, è la solita lamentela, il solito piagnisteo, come titola qualcuno, per il mancato trasferimento di soldi, oppure no? Ma guardi, secondo me le regioni meridionali qualche ragione ce l'hanno anche, nel senso che effettivamente ci sono dei fondi che erano ad essere destinati e che sono stati spostati su altri capitoli, ed effettivamente, per esempio, si può dire che in molti servizi il budget pro capite che la regione meridionale riceve, la regione tipica, è un po' inferiore a quello del nord, quindi ci sono anche delle buone ragioni di lamentela. Il problema però è che, faccio un esempio numerico, a parità di popolazione, la Lombardia riceve 100 pro capite, un'altra regione riceve magari 90, sì, una regione meridionale. Se però la Lombardia spreca il 5% e la regione meridionale spreca il 35%, sono cifre reali, non sto campandole per aria, e allora quel 90 con uno spreco di 35 cosa diventa? Diventa 55, e invece quel 100 della Lombardia con uno spreco di 5 diventa 95, quindi si allarga enormemente il gap. Allora, quello che sta succedendo, a mio parere, è che una parte del ceto politico comincia a ragionare così: non una lira in più al mezzogiorno se non ci sono garanzie che non venga dissipata. E dato che queste garanzie non vengono fornite perché tutti i piani di rientro falliscono miseramente, a un certo punto si comincia a dire sì, state ricevendo poco, però per avere quello che tutto sommato vi spetta pretendiamo che facciate ordine. Questo è quello che, a mio parere, sta timidamente capitando. Dunque, in sostanza, secondo lei è un problema soprattutto di rinnovamento delle classi politiche meridionali? Non ho capito, non ho sentito proprio. No, voglio dire, alla fine, siccome bisogna trovare delle idee, no, per il Sud, sì, fondamentalmente, io credo che alla base di tutto ci sia il rinnovamento delle classi politiche meridionali, sostanzialmente. Questa è la prima cosa, no? E questa sarebbe la condizione perché qualcosa succede, perché purtroppo il ceto politico meridionale è quello che è. Però al di là del ricambio, io tendo a pensare che siano proprio i meccanismi, cioè faccio l'esempio che conosco meglio, quello dell'università. Sì. Se si viene a sapere che certi parametri di qualità verranno effettivamente utilizzati, cioè meno quattrini a chi non li rispetta, beh, allora i comportamenti cambieranno anche. Cioè, io non sono così convinto che sia prevalentemente una questione di ricambio, anche se mi piacerebbe. No, ho capito. Cioè, se non è previsto, che ne so, se non è previsto una sanzione molto forte in caso, non so, di, per esempio, di sfondamento dei parametri della sanità, no? È difficile ipotizzare che poi una classe politica, anche se nuova, possa essere virtuosa. Esatto, però se invece c'è un piano realistico, che non può essere punitivo, ma un piano realistico per cui io avevo una volta anche immaginato un meccanismo che io chiamo cofinanziamento, cioè uno può dire io vi do tre volte quello che riuscite a risparmiare, sì, però prima mi dovete dimostrare di risparmiarlo. Allora una regione risparmia 10, e quando avrà risparmiato 10 ci viene dato 30, ma prima deve dimostrarmi di aver risparmiato 10. Allora questo è un meccanismo virtuoso che qualsiasi amministratore, che sia onesto o disonesto, è incentivato ad applicare. Quindi io tenderei a rendere effettive le regole più che a pretendere ricambi, anche se i ricambi si potrebbero immaginare nel caso di default. Cioè, su questo secondo me hanno ragione quelli che dicono, beh, insomma, quando uno un governatore manda in default la sanità, dovrebbe automaticamente andare a casa e si dovrebbero rifare le elezioni. Un'ultima cosa, professor Ricolfi, riguarda questo: secondo lei alla fine mette tutto a posto Berlusconi, oppure stiamo assistendo, come teme per esempio Peppino Caldarola che è intervenuto prima da noi, stiamo assistendo alla nascita di un'altra spinta centrifuga? Ma io temo che Berlusconi metterà tutto a posto. Perché lo teme? Perché lo teme? Perché mettere tutto a posto significherà mettere una pezza, diciamo. Mettere una pezza, andare avanti ad annunci, stanziare delle risorse che poi non arrivano. Cioè, tenga conto che le risorse non vengono spese nel mezzogiorno, cioè questi fondi vengono, è vero, spostati, però sono un sacco di fondi non spesi. Allora, io temo che si faccia un'operazione di maquillage, qui si danno delle rassicurazioni al mezzogiorno, si fermano alcuni progetti che sono più di interesse delle regioni del nord e si va avanti lentamente con un lieve aumento della spesa pubblica. Cioè, questo per me è lo scenario ancora più probabile. Assolutamente. Grazie, buona serata. Grazie a voi, arrivederci. Ernesto ci chiama da Roma, buonasera. Buonasera Cruciani. Sì. Senta, mi sente? La sento, la sento. Niente, io in sintesi e chiarezza le farò la domanda esprimendo il mio pensiero sul Partito del Sud, però poi mi deve consentire di fare al giornalista Giuseppe Cruciani un'altra domanda su un altro argomento che sta a cuore a me come almeno 40 milioni di italiani. Addirittura. Sì, più o meno. Poi se ne renderà conto. Allora, per quanto riguarda il Partito del Sud, io voto centrodestra dal 94, da quando è sceso in campo Berlusconi, perché io abito a Roma da oltre 40 anni e sono originario di Salerno. Quindi per quanto riguarda il Partito del Sud, io penso che non ci sia nessun problema, perché Lega Nord più Lega Sud più Popolo della Libertà arriviamo al 70%, non vedo dove sia il problema, perché noi meridionali non voteremo mai in massa o grandemente verso il centro-sinistra, come storicamente abbiamo dimostrato. Prima eravamo tutti DC, adesso siamo tutti centrodestra, quindi non vedo proprio dove. Ma tutti, bisogna vedere dalle regioni, dalle situazioni. Comunque, Ernesto, qual è la domanda? La domanda, io vorrei sapere, un giornalista come lei ha paura di parlare del petrolio e del prezzo e della ruberia continua dei petrolieri al prezzo alla pompa della benzina. Da quando il barile stava a 150 euro, a 150 dollari, oggi è sceso sotto i 70, il prezzo alla pompa è sceso solo di qualche decimale. Di questa ruberia perché nessuno ne parla? Ma guardi che ne parliamo in questa radio da non so quanto tempo, credo da 10 anni, da quando esistiamo, tutte le sere adesso, insomma, quando è il caso, quando è il caso ne parliamo. Ma no, ma assolutamente Ernesto, non c'è questo problema. Perché è un furto continuo che mette su di noi. Sì, non so se sia un furto, i meccanismi sono complicati, li abbiamo spiegati più volte, ma certamente non abbiamo timore di parlarne. La ringrazio, andiamo a sentire il TG5. Afghanistan, chiusa la polemica sulla missione, la maggioranza nessun contrasto e giallo su una tregua tra i talebani e il governo di Kabul fino al voto del 20 agosto. Sarkozy lascia l'ospedale mano nella mano con la moglie Carla, l'Eliseo rassicura nessun problema al cuore, per Super Sarko basterà un po' di riposo. Il governo rinvia il pagamento delle tasse per i terremotati d'Abruzzo, più che raddoppiata la rateizzazione degli arretrati. Tragico bilancio di morti annegati, la drammatica storia di un bimbo in Sardegna, l'istinto di tuffarsi in aiuto, ma l'esperto avverte solo se si è preparati. Scoperta dalla Guardia di Finanza una super evasione fiscale da 1 miliardo di euro, denunciati 120 imprenditori siciliani dei rottami metallici. In estate esplode la voglia di conquista, per l'esperto si cerca quello che manca nella coppia, ma ci sono tanti recidivi. Beh, avete sentito la seconda notizia del TG5, proprio non ce ne sono di notizie oggi, il malore di Sarkozy che lascia l'ospedale, ho visto prima le immagini salutando i medici con la moglie Carla Bruni mano nella mano al suo fianco, va bene, il corpo dei presidenti, il corpo dei potenti, i potenti che vogliono mantenersi in forma. Ho visto oggi su internet delle foto incredibili, secondo me è un fotomontaggio, di Aznar, l'ex leader spagnolo Aznar, che sembra una sorta di culturista. Si è scolpito tutti i pettorali in maniera strepitosa, almeno sembra, TG1. Afghanistan, nella provincia di Badghis, ipotesi di tregua tra afghani, italiani e leader locali per consentire le elezioni. Frattini, nostri per la sicurezza, Lega dopo Bossi, sempre mantenuti gli impegni presi. Franceschini, nessun ritiro. Camorra, il boss Sarno si pente, il figlio rimane fedele al clan e minaccia di morte la madre, arrestato a Napoli. Bloccati sulla nave abbandonata ad Ancona l'odissea di 11 marinai russi, ora vivono grazie all'aiuto della gente. Sarkozy esce dall'ospedale, solo un malore per superlavoro e a 50 anni sia lo sport, ma attenti a non esagerare. Felipe Massa reagisce bene alle cure, ma il suo campionato è finito, i medici preoccupati per possibili danni all'occhio sinistro. Poi naturalmente iniziano i servizi a 50 anni, si può correre, non si può correre, fa male, fa bene. Certo, se uno va a correre a luna d'estate il 25 luglio qualche problema lo può avere certamente. Dove andiamo? Andiamo a Roma da Carlo, buonasera. Ah, buonasera Crociani, io volevo intervenire sulla problematica del Sud che è uscito oggi. E a mio avviso, se non si cancella definitivamente la criminalità organizzata, mafia, 'ndrangheta, camorra, tutto quanto, è inutile ricominciare da capo. Cioè, prima bisogna estinguere questa, se no altrimenti stiamo sempre da capo a 12, perché lì sono molto potenti e conseguentemente qualsiasi iniziativa poi imprenditoriale, sia italiana che estera, non verrà mai se non c'è prima una, non si estirpa prima questa malattia, chiamiamola italiana, del possesso di quattro regioni da parte della criminalità organizzata. Ho capito, Carlo, sembra quasi scontato il suo ragionamento, però è così. Uno dei grandi problemi resta quello, ma insomma, non vogliamo essere banali però. Simone da Padova. Sì, salve. E io in qualche modo mi richiamo anche un po' a quello che ha detto l'ascoltatore precedente. Io quello che volevo ricordare è che entrambi le regioni della Calabria che il Veneto sono due regioni che hanno condiviso per qualche parte del Novecento lo stesso tragitto, nel senso che erano i massimi esportatori di emigranti nel mondo. Sì, sì. Dopo la seconda guerra mondiale in qualche modo sono partite da zero allo stesso modo, ancora hanno avuto sono stati un sacco di emigranti, ma poi le due regioni hanno preso due strade diverse. Il Veneto si è sviluppato e rappresenta adesso una delle regioni più ricche non solo d'Italia ma d'Europa, mentre la Calabria è rimasta ancora a quel livello lì. Cioè, è una questione secondo me di opportunità. Se al Veneto è stata data un'opportunità in qualche modo, penso la stessa opportunità sia stata data anche alla Calabria, però la Calabria non è riuscita a venirne fuori, in qualche modo la libera iniziativa e i capitali penso siano arrivati allo stesso modo giù tanto quanto qui al nord, ma la libera iniziativa soprattutto è stata depressa, le persone non hanno potuto far partire quelle attività che invece sono il cuore dell'economia italiana, il terziario, la piccola impresa che al nord ha avuto questo enorme successo, soprattutto qui a nord-est. Va bene, ringrazio. Le ultime righe dell'articolo di oggi dell'amico Nicola Porro sul Giornale recitano così: politico locale spende più di quanto ha, è un circuito vizioso che funziona più o meno così, la sindrome del sud viene rieletto grazie a queste spese, al momento di pagare il conto ripropone la questione meridionale, agita la questione meridionale si potrebbe dire, nel frattempo i cittadini vengono ridotti i servizi già di scarsa qualità e Roma, per non rischiare di perdere consensi, copre i conti a piedi lista. Fino adesso ha funzionato in questo modo. Giuseppe da Milano, buonasera. Pronto? Sì, buonasera Giuseppe. Dica. Ah, buonasera, mi scusi, dottor Cruciani. Prego. Allora, la saluto e la ringrazio per l'opportunità che ci dà nel poter esprimere quantomeno le opinioni comuni senza filtro né nulla. Niente, volevo esprimere il mio pensiero riguardo proprio a questa situazione che a mio avviso è l'ennesima presa in giro. La ritengo così un escamotage politico per sviare un attimino quello che sono le reali problematiche del paese. Adesso andiamo in vacanza, avremo da parlare di questo benedetto partito del Sud che a mio avviso è una cavolata, cioè non ha senso. Cioè, i politici cosa sono, del nord, del sud o del centro? A quanto mi riguarda vedo forse più politici del sud da quando ricordo io che di quelli del nord, quindi non è una situazione di sud o nord, è semplicemente una volontà. Mi scusi se parlo così, ma appena corso col cane per quello che non si preoccupi, vada pure. Mi scusi. E quindi ecco, questo ritengo che sia così un'ennesima presa in giro. Io credo che le problematiche siano ben altre, forse così come si suole dire così in gergo sportivo, siamo tutti allenatori e siamo tutti politici, no? Italiani. Io ritengo che molto semplicemente e forse con un pochettino così di ingenuità, me lo permetta, credo che forse la riforma della magistratura sia quello che realmente a me preme e preme un po' a tutti. Vabbè, questo però è un altro discorso. Sì, ma mi riallaccio a quello che hai detto prima riguardo al fatto che ci stanno sviando un po', se è giusto. Ma nessuno svia, nessuno svia, nessuno si... ci sono alcuni politici, in particolare un sottosegretario del governo, questo è incredibile, il governatore della regione Sicilia, che hanno agitato la possibilità di creare un movimento del sud analogo a quello della Lega per ottenere quello che fino adesso il sud non ha ottenuto. Non so bene cosa significa, però magari riescono a spiegarlo bene loro. Fino adesso io ho letto e ho solo interpretato queste cose come l'ennesima richiesta di quattrini. Poi come vengono spesi questi quattrini non ha importanza. La ringrazio, Giuseppe. Andiamo a Cagliari, Davide. Buonasera, Davide. Sì, buonasera, dottor Cruciani. Grazie per avermi richiamato. Insomma, la seguo sempre. Complimenti per la sua trasmissione. Niente, io volevo, se posso, intervenire in merito ad una, diciamo, precisazione per quanto riguarda, diciamo, un'osservazione che sento spesso fare anche da parte di giornalisti in merito al fatto che molti fondi stanziati per il Sud poi non vengono spesi. A mio avviso c'è una ragione che va al di là, diciamo, della capacità o incapacità della singola regione di spendere tali fondi, è dovuto al fatto che questi fondi molto spesso hanno una loro destinazione che è, diciamo, precipua della legge, cioè ti obbliga a fare investimenti più nel processo produttivo che nel prodotto. Quindi soprattutto un tessuto fatto di piccole aziende che magari fanno l'outsourcing per gli aspetti produttivi, dove serva un rinnovamento continuo del prodotto piuttosto che del processo, la fabbrica è quella, le presse le ho comprate, però mi serve fare un nuovo prodotto, quindi avrei bisogno di investire, diciamo così, in attività di sviluppo, in tecnici. Ecco, molto spesso i finanziamenti non lo consentono proprio per loro natura, perché fanno riferimento a certe tabelle per cui questo può darsi, però non credo che sia l'unico motivo perché i fondi non vengono poi nemmeno utilizzati in alcuni casi. No, assolutamente no, però lei, diciamo così, introduce un fattore che è molto importante. Ora, favorisce sicuramente le grandi aziende che fanno pianificazioni più di lungo termine, quindi dicono va bene, rinnoviamo quell'impianto, facciamo un grosso investimento in un nuovo capannone, eccetera. Ma in un tessuto fatto di piccole aziende, secondo me lo strumento non è affinato a sufficienza, perché cioè, si fa in fretta a dire non vengono spesi soldi, poi alla fine si va a vedere il perché. Anzi, devo dire che anche un giornalista proprio del Sole 24 Ore aveva fatto un'osservazione analoga che io ho trovato giustissima, dicendo ecco il motivo massimamente può essere dovuto a questo. Poi per carità, certamente non è l'unico motivo, una certa cultura imprenditoriale magari maggiormente presente al nord rispetto che al sud, tutta una serie di fattori, però questo insomma mi piaceva darlo come mio contributo. La ringrazio. Dove andiamo? Andiamo a Roberto, provincia di Milano, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera ai radioascoltatori. Roberto, mi faccio mandare i titoli della 7, che fino adesso non li abbiamo mandati, poi torno con lei. Riportiamoli a casa. Calderoli infiamma la polemica tra Lega e PDL sulla presenza militare italiana in Afghanistan. Frattini replica: stiamo lavorando anche per la sicurezza dell'Italia. E il governo di Kabul annuncia una tregua con i talebani proprio nell'area dove è stanziato il nostro contingente, ma il loro portavoce smentisce. Piromani scatenati dopo i roghi in Sardegna, l'emergenza si sposta in Sicilia. Nelle Siracusano è stata incendiata la riserva naturale di Cava Grande. Intanto gli esperti rassicurano: caldo sì, ma siamo nella media stagionale. Colpo stile soliti ignoti all'IKEA di Afragola, nel napoletano. I ladri fanno esplodere il cavò mandando in fumo 100.000 euro e restano a mani vuote. Sono qui per vincere la Champions, dice Toh, il neoacquisto interista arrivato a Milano. Dopo la sconfitta proprio con i nerazzurri, Leonardo chiede rinforzi per il suo Milan. E intanto arrivano notizie poco rassicuranti per Massa, lesionato dall'incidente l'occhio sinistro. Va bene, dove andiamo? Eravamo con Roberto. Roberto dalla provincia di Milano, eccoci. Sì, buonasera. Io intervengo sul tema del Partito del Sud, anche se voglio dire che in Afghanistan strategicamente ci rimarrei, lì vicino c'è il Pakistan, c'è l'India, c'è un tema di democrazia internazionale e di equilibri. Comunque torno al Partito del Sud, che evidentemente esce come una provocazione per chiedere dei soldi, e su questo concordo con lei e penso con molti ascoltatori. Ma, come dire, parlando di Partito del Sud mi viene in mente un parallelo con la Lega e il Partito del Nord. Tuttavia, se penso alla mitologia della Lega, vedo una cosa differente, vedo un moto che è nato dal basso, con un'istanza culturale più o meno giustificata forte, e con un progetto che era sì locale, ma che aveva una declinazione nazionale. Il federalismo in fondo è un tema di organizzazione del sistema Italia, non del sistema Lombardia o Veneto. Qua nel Partito del Sud mi manca un'idea forte, se non appunto un chiedere più potere, ma un'idea forte. Alcuni contributi hanno dato degli punti, potrebbe essere trovare una politica industriale nuova per il Sud, su questo concentrare delle forze. Sì, no, ma è vero, bisogna avere idee nuove, magari una fiscalità diversa, un grande impegno nelle infrastrutture, ma non c'è bisogno per questo di un partito, bastano i tanti politici meridionali che navigano. Che navigano nel transatlantico italiano, che abitano nel transatlantico italiano e sono presenti soprattutto nella compagine di governo. Non ci vuole un partito. E poi chiudo, ma convengo, non serve un partito, tuttavia in Italia chi vuole se lo fa un partito, e non vedo che un partito del Sud abbia meno dignità di un partito, diciamo, del Nord, intendendo la Lega, ecco, tutto lì. Quindi, ma non è questione di dignità, non è questione di dignità, nessuno dice che un partito non avrebbe la dignità, anche perché poi si ragiona sempre con i voti, naturalmente, se è un partito che ha consenso, è che proprio non, un partito nasce anche per delle esigenze reali, la Lega nacque e si sviluppò per delle esigenze reali che c'erano nel Nord, poi la Lega è cambiata nel tempo, per carità. Vedo che c'è grande unanimità tra tutti gli ascoltatori sul fatto che questo Partito del Sud serva davvero a poco. Sono contento, direi. Alfonso da Firenze. Eccomi, buonasera a tutti. Buonasera. Io invece sono assolutamente d'accordo, assolutamente magari è troppo, però sono d'accordo con il Partito del Sud. E mi riallaccio proprio a quello che diceva poco prima dell'interruzione del traffico. La Lega nasce tanti anni fa ormai, proprio per delle esigenze economiche, almeno questi sono i miei ricordi. Si parlava esattamente del fatto che la ricchezza che veniva prodotta a nord veniva poi ridistribuita nel resto dell'Italia. E quindi, diciamo, nasce proprio per una motivazione economica. Poi, giustamente, come lei ha detto, è cambiata con il tempo. E il Sud, facendo un suo partito, vabbè, perché no? Potrebbe portare avanti quelle che sono così delle rivendicazioni, poi giuste o non giuste, politici che sono del Sud, che navigano nel transatlantico, è stato appena detto, ok, però voglio dire, al Sud c'è in effetti una popolazione che ha dei problemi, e forse un partito potrebbe aiutare in un altro modo, in un modo completamente diverso da quello che ho continuatamente sentito dire stasera. Forse un partito potrebbe in una ipotesi che è opposta a quella che ho sentito molto spesso stasera, forse aiutarlo il Sud. Però lo decideranno gli elettori, forse. No, ho dei dubbi sul fatto che un partito possa... possa aiutare, anche perché l'aiuto deve venire dalle idee, da idee nuove, e io di idee nuove, a parte naturalmente adesso non voglio dire che tutti i fautori di questo partito del Sud siano dei vecchi arnesi, io di idee nuove non è che ne vedo molto in circolazione da parte di questi campioni del partito del Sud. 800 24 00 24, l'avevamo lasciato così. Franco Turigliatto, buonasera, prego, si dottor Vespa, prego. Io ho un problema. Mi dispiace molto, ma non posso continuare a rimanere qui. Lei è stato molto gentile, mi ha invitato e so quanto ci ha trattato bene, a differenza di altre televisioni. Se lei deve fare una sceneggiata, non le fa onore. Non le fa onore. E lei sapeva che sarebbe venuto con un fascista. Lo sapeva, avrebbe potuto non venire. Mi dispiace. Mi dispiace, ma trovo profondamente scorretto il suo atteggiamento. Buona serata. Molti di voi lo ricorderanno, Franco Turigliatto, buonasera. Buonasera. Ho ricordato buonasera. Quando lei andò via da Vespa perché c'era anche un fascista, se lo ricorda? Sì, un fascista molto particolare, rappresentante di una posizione politica e sociale molto aggressiva. Peraltro, diciamo così, le idee di destra e anche fasciste vanno molto forte, non solo in Italia, in anche Europa, ma mi pare giusto combatterle. Lei addirittura andò via da quella trasmissione dove era stato invitato perché rappresentante, lei si presentò poi alla elezione del 2008 sotto che bandiere, diciamo? Sotto la mia organizzazione, Sinistra Critica, in cui continuo a militare, peraltro. Andai poi ancora in altre televisioni, non è che diciamo l'esclusione no, da parte no, per carità. Diversa. No, ma lei si è autoesclusa da Vespa. Lei si è autoesclusa da Vespa, non è che la cacciò Vespa, insomma, lei si andò da solo da Vespa. Sì, me ne andai esattamente di fronte a quella che consideravo una quasi una provocazione per come era stata organizzata, ma questo diciamo ormai è tempo passato, passato. Ci sono altre cose. Più di un anno fa. Molti di voi, assolutamente, molti di voi ricorderanno Franco Turigliatto perché fu protagonista, per un certo periodo era uno degli uomini politici più cercati dalla stampa, se lo ricorda, no? Sì, diciamo, le mie certo, in quell'equilibrio di quel Parlamento, di quel Senato esatto. La mia posizione critica verso il governo Prodi per le sue incapacità di fare una politica alternativa ovviamente avevano un peso abbastanza significativo. Soprattutto sull'Afghanistan, se lo ricorda, no? Soprattutto una delle sue grandi battaglie era il ritiro dall'Afghanistan, la guerra, eccetera, eccetera. Esattamente, e peraltro diciamo così, fummo allora io e la mia organizzazione, la mia posizione politica abbastanza lungimirante, perché diciamo il cammino verso un impegno militare in Afghanistan che ci trascinava sempre di più in una guerra vera e propria si è purtroppo poi rivelato assolutamente vero e oggi ci siamo dentro fino in fondo con un pericolo grandissimo di rimanere impegolati sempre di più e poi col pericolo ovviamente di farsi ammazzare e di ammazzare. Ecco, non trova un po' curioso il fatto che le posizioni che lei sostiene e continua a sostenere dalla, io la chiamo estrema sinistra, ma così per semplificare e far capire agli ascoltatori, sono praticamente le stesse di quelle oggi espresse in un'intervista da un uomo di governo che certamente non è vicino a lei, o almeno non sembra vicino a lei, che è Roberto Calderoli. Oggi un'intervista a Repubblica, che anche lei avrà letto sicuramente, certo. Via dal Libano e dai Balcani, l'Occidente ha contribuito all'esplosione delle guerre, la vendita di armi, eccetera, eccetera. Quando ha letto questa intervista, cosa ha pensato? Ma io ho pensato che l'ipocrisia e il cinismo di alcuni sono senza fine. Ho pensato che diciamo non è certo Calderoli che si è distinto insieme ad altri al suo partito in questo periodo per posizioni xenofone e razziste possa essere credibile quando dice magari formalmente una cosa giusta, quello che è necessario ritirare le truppe dall'Afghanistan, ma nello stesso tempo il suo partito non più di qualche giorno fa, se non vado errato venerdì, ha votato il cosiddetto decreto anticrisi, ma che comprende il rifinanziamento della missione, sì. un un lunghissimo articolo con tantissimi commi, non mi ricordo se sono 70-80 commi, che prevede esattamente il rifinanziamento di tutte le missioni militari. Però al di là della questione della Lega, è importante questa questione del rifinanziamento, per carità, non l'abbiamo sottolineato finora. La Lega naturalmente abbaia, dice con Bossi che i soldati dovrebbero tornare a casa, Calderoli se la prende addirittura con l'Occidente, lo stesso Occidente di cui fa parte evidentemente e con cui è alleato in varie situazioni, e poi rifinanzia la missione. E vabbè, insomma, lasciamo passare questo. Però insomma, le parole di Calderoli, se tolte fuori da questo contesto, insomma, sono assolutamente uguali alle sue, no? Lei le sottoscriverebbe una per una, o no? Il problema è che il sottoscritto ha una coerenza politica e le mie posizioni da sempre contro la guerra. Quelle di Calderoli sono strumentali in questo momento, che diciamo così è attento ovviamente a quel che sono gli umori pubblici, un personaggio come Calderoli sicuramente, e a differenza di quello che pochi giorni fa mi pare il ministro della difesa, però anche lo stesso Presidente della Repubblica sostenevano che diciamo la maggioranza degli italiani sostiene questa missione qui, se non vado errato il sondaggio che ho visto oggi proprio su Repubblica, non mi ricordo su quale dei giornali, conferma che come peraltro era tre anni fa, quando c'era una larghissima maggioranza degli italiani che riteneva ingiusta la partecipazione alla guerra in Afghanistan, anche oggi continua a esserci una maggioranza di italiani in questa direzione. Calderoli per ragioni sue, ripeto, ultra strumentali e non credibili, prende, diciamo, cavalca quest'onda che però corrisponde a un sentimento più profondo, e da questo punto di vista sono ugualmente incredibili le parole di Franceschini, che invece continua a sostenere questa missione. E in realtà che poi è la posizione perché incredibili, è la posizione coerente del Partito Democratico ai miei occhi, no sì certo, però è la posizione ai miei occhi e direi anche agli occhi di una parte importante della popolazione. Vabbè, insomma, chi è contrario alla guerra in Afghanistan chiaramente non ama le parole di Franceschini, però dal punto di vista del Partito Democratico bisogna dire è la posizione che sempre ha tenuto il Partito Democratico, questo non c'è dubbio. E infatti il problema è esattamente l'estrema sinistra che diciamo che era originariamente contro quella guerra e poi salita al governo in realtà fu incapace di difenderla coerentemente questa posizione. Senta Durigliatto, ma lei sento che continua a fare politica attivamente, è tornato alla regione dopo quell'esperienza lì, no? È tornato a fare funzionario della regione? Diciamo così, a differenza di tanti altri sono tornato a lavorare normalmente da impiegato alla regione Piemonte, mi occupo, sono al servizio studi, supporto legislativo, faccio un normalissimo lavoro come facevo prima, come ho sempre fatto nella mia vita. Quando esco alle 4:30 faccio l'attività politica per Sinistra Critica, mi occupo in particolare ancora delle questioni lavoro, quindi sono più non che prende mai manco la pensione, non prende manco la pensione da deputato perché non ce l'ha fatta. Non abbiamo la pensione da deputato, ho un futuro di lavoro ancora lungo, ma appunto mi sono sempre ritenuto una persona normale e ho cercato anche quando ero in Parlamento di essere non solo coerente ma diciamo così una persona normale che svolge quella funzione lì in Parlamento dal punto di vista degli interessi del mondo del lavoro. La cosa più incredibile, Turigliatto, è sentire oggi sostenere nelle parole di Calderoli le stesse istanze, le stesse cose che voi dicevate in quel biennio così drammatico da un certo punto di vista, che poi ha portato all'esclusione della sinistra radicale dal Parlamento, 2006-2008. Calderoli ha fatto anche una legge che poi ha chiamato una porcata, la legge elettorale, insomma. Per cui non è nuovo a giravolte, dice. È personaggio brillante che di volta in volta, diciamo così, coglie diciamo determinati umori e gli dà. Tra l'altro lo dice pure, anch'io un tempo ero interventista, poi ho fatto il mea culpa. Peccato, doveva ricordarsene una settimana fa, però. Turigliatto, anche lei ogni tanto dovrebbe fare mea culpa, però. Per quale ragione? No, io ho ragione sull'Afghanistan. È cominciato di lì la crisi della sinistra e del governo di Prodi. Va bene. Avrebbe dovuto far diversamente. La ringrazio, buona serata. D'accordo, buona serata. Domenico da Bari, buonasera. Dopo una voce del nord come quella di Turigliatto ci chiama da Torino, andiamo a Bari, Domenico. Domenico, pronto? Non mi sente, va bene. Allora andiamo sempre al sud. Stiamo Ilario da Bari, buonasera. Sì, buonasera. Io sono un ricercatore universitario. Oh, eccoci qua. Sì, in realtà volevo diciamo intervenire su questa polemica Sud-Nord. Sono d'accordo con lei quando dice effettivamente il partito del Sud di fatto non è rappresentato, diciamo, da novità, ecco. Però un aspetto volevo insomma mettere in evidenza. Uno, attualmente il governo ha alcuni ministri, diciamo, del Nord, mi passi questo termine, nei posti chiave, Tremonti, Maroni, per fare alcuni esempi, insomma. Ma perché lei parla di ministri del Nord? Sono ministri della Repubblica, ecco, Italiana, no, cioè non, ecco, non sono permette, ministri del Nord, abbia pazienza, Ilaria. No, mi permetta di fare... Cioè lei dice sono ministri che insistono soprattutto su un elettorato del Nord. Ecco, mi ha praticamente preceduto, ma le faccio anche un esempio concreto, nel senso, ho letto qualche tempo fa, penso che anche lei abbia dato un'occhiata, a quelli che sarebbero i criteri con cui vengono poi assegnate le risorse alle università. Ecco, tra i criteri ce n'è uno che è piuttosto particolare, nel senso che evidenzia la capacità dell'università di fare poi attività di placement, cioè entro un triennio dalla laurea, se una persona che si è laureata in quell'università trova lavoro, in questo caso dà un vantaggio in termini di finanziamento assieme ad altri criteri all'università. Beh, si rende conto che in realtà trovare lavoro in un periodo piuttosto breve, insomma, dalla laurea è molto più difficile al sud che al nord. Ma in questo invece la Gelmini è stata molto attenta a mettere tra i criteri questo aspetto, cioè concretamente quello che mi preme, come dire, evidenziare non è tanto il partito del sud, quanto alcune istanze in termini di politica industriale, politica economica, sono stati molto più attenti gli interessi, ecco, parliamo tra virgolette del nord, che non quelli del sud, anche perché la composizione, lo ribadisco, di questo governo è molto attenta a questi aspetti, diciamo, rispetto magari al passato, come lei giustamente ha fatto, dove c'erano magari i politici del sud che rappresentavano più che altro. Ma guardi, può darsi che questo governo sicuramente abbia al suo interno una componente tra virgolette nordista maggiore di quella meridionalista, mettiamola così. Il discorso da fare sul meridione è molto lungo e molto complesso e certamente non possiamo affrontarlo adesso. Non c'è dubbio che la classe politica italiana a livello di governo centrale nei confronti del meridione abbia avuto un atteggiamento che è stato soprattutto quello di trasferimento di risorse e di clientele, più che di pensare a un modello di sviluppo autonomo o collegato col resto del paese. Sto pensando alle infrastrutture, a un sacco di altri temi. La ringrazio, Ilario. Se c'è una responsabilità, e ce ne sono tantissime da parte dei vari governi centrali, ma questo è un discorso molto lungo e non è certamente per questo che si vuole fare il partito del Sud, magari. Andiamo a Napoli. Giuseppe, buonasera. Pronto. Buonasera. Grazie dell'opportunità che mi dà. Io volevo semplicemente discutere preventivamente su questo discorso della classe dirigente. Cioè, io penso che il primo punto importante è che se si vuole pensare anche filosoficamente alla costruzione di un partito del Sud, io parlo da Napoli, il primo problema è proprio riformare completamente quella che è la classe dirigente. Però questo problema non è solo un problema del Sud, e in questo faccio autocritica, credo che sia un problema in molti casi nazionale. Abbiamo comunque, insomma, una classe in generale politica, salvo rare eccezioni sostanzialmente, che non è che proprio, insomma, in Europa brilla per capacità, per competenze e anche sostanzialmente molto spesso per qualità, diciamo, della produzione, diciamo, in termini proprio di vantaggi, di benefici per il paese. Quindi questo è un problema molto serio. Oltre a questo, ci tengo a precisare che se in Italia esiste una forza regionale come la Lega, non credo che non si possa dire, visto che la Costituzione lo prevede, da questo punto di vista, che non ci possa essere un domani una formazione che sia piena espressione degli interessi di un altro territorio che il Sud, che sicuramente in questo momento è l'area del paese più svantaggiata. Ma nessuno dice che non si può fare un partito del Sud, si sta riflettendo su chi sono gli animatori e quali obiettivi hanno, dove vogliono arrivare. Ma su questo sono d'accordo con lei, cioè se il fatto che molti di questi animatori siano, diciamo, in questo caso delle persone che vogliono sfruttare quella che è una condizione per continuare a perpetuare una politica che non è mai stata nell'interesse del meridione d'Italia, su questo punto non c'è proprio dubbio. No, guardi, io non lo so, non do giudizi così pesanti come da lei su questa classe politica che si vuole inventare il Partito del Sud. Faccio semplicemente notare che sono persone che hanno avuto responsabilità di governo nel Sud da diversi anni, naturalmente con ruoli molto diversi l'uno dall'altro, Però, ripeto, sono persone che hanno avuto ruoli e responsabilità le più disparate. Ora, evidentemente, se pensano che il Sud in una situazione disastrosa saranno corresponsabili di questa situazione. Gli stessi protagonisti vogliono a loro volta essere alla guida di un nuovo partito. Io questo lo trovo bizzarro. Il problema è proprio quello, cioè la concezione di un partito. Io parto da un presupposto più semplice per quanto mi riguarda. Io credo che storicamente, visto che ci avviamo al 150° anniversario dell'Unità d'Italia, sostanzialmente bisognerebbe capire come è nata l'Unità d'Italia. Ma questo glielo dico con la massima tranquillità. Cioè, se pensiamo che nel 1860 a Mongiana sulle Serre, in Calabria, c'era un'azienda, per esempio le Reali Ferriere di Mongiana, che avevano 2500 dipendenti e che adesso forse in Calabria non esiste più un'impresa che abbia un tal numero di dipendenti, forse capiamo che dal 1860 ad oggi, a parte rarissime eccezioni che possono essere il Florio della Sicilia o altre cose di questo genere, l'impresa al sud è stata una modalità molto rapace, per interessi che non sono mai stati quelli del sud, per sfruttare un territorio che poi è stato sostanzialmente depredato. Guardi, lei parla di sfruttamento, di territorio depredato, non sono cose che non esistono, secondo me. Interessi non del sud, come se il sud fosse un'unica realtà, tra l'altro, che va da Napoli fino in Sicilia, non è così. La ringrazio, Alessandro da Milano. Dottor Cruciani, l'ascoltatore. Ma io proprio... Un attimo solo, Alessandro, i titoli del TG2. Afghanistan, i talebani smentiscono la notizia di una tregua nel territorio controllato dagli italiani. Le intelligence alleate temono un'escalation degli attentati. La Lega stoppa le polemiche. La famiglia del primo italiano morto in Argentina per la nuova influenza forse chiederà l'autopsia per avere chiarimenti. Intanto l'OMS dice sul vaccino nessuna economia. Si è costituito l'uomo che nel Bresciano ha ucciso con un colpo di fucile la sua convivente, una donna di 37 anni. L'omicida, prima di darsi la fuga, aveva confessato tutto al figlio. L'Istat, a gennaio eravamo 60 milioni e 67 mila con una crescita di oltre 22 mila unità, ma questo solo grazie al flusso di immigrati che peraltro inizia a calare. Negativo il saldo nascite morti. Troppi cavalli morti o malconci nei tanti pali italiani, varate nuove regole nel rispetto delle tradizioni, proibiti frustini, morsi e speroni, esclusi gli animali con meno di 4 anni di età, stretta sui controlli sanitari. Eccoci allora, eravamo con Alessandro, prego. Premesso che agganciandomi all'ascoltatore di prima, sono 150 anni che abbiamo questo problema del sud, ma io vorrei lanciare un po' una semi-provocazione. Se questo partito contribuisce, diciamo così, a coagulare quello che sono un pochettino delle istanze loro particolari, ma anche a fare quello che è successo in Cecoslovacchia nel 1993, in maniera consensuale, in maniera pacifica, senza accapigliarci né niente, cominciare a vedere prima, considerare la possibilità di due stati confederali e poi dopo vedere se non sia più opportuno per entrambi, perché qui stiamo andando indietro tutti, il nord e il sud, anche la Grecia nel PIL ci ha superato proprio recentemente, e di fare proprio due stati diversi. Questa è la mia considerazione. Questo mi sembra francamente... Un po' tanto, però non è la fine del mondo, ecco. In maniera consensuale, pacifica, però riconsiderare un po' tutto questo problema. Vabbè, la ringrazio. Mauro da Lodi, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Io volevo una sua opinione in merito al problema dell'evasione fiscale. Le spiego in due minuti. Io sono imbattuto in diversi momenti nei confronti dell'evasione fiscale. Essendo studente, figlio di lavoratori dipendenti, diciamo il primo step è stato affitto fuori sede in nero. Dopodiché ho potuto vedere che la maggior parte della gente che poteva stare nelle case di studio erano figli di lavoratori, di imprenditori che avevano la possibilità di dichiarare in nero e quindi entravano nelle case di studio. Ora mi trovo ad avere uno stipendio normale, potermi permettere una casa, posso accedere ai mutui al 100%, però nel momento in cui vado da un costruttore per comprare appunto una casa, mediamente mi viene richiesto una somma in nero. Purtroppo io, purtroppo sia per mia vocazione che per mancanza di cash non ho, e quindi mi trovo impossibilitato ad acquistare una casa. Sì, no, Mauro, però il problema del pagamento in nero per quello che riguarda gli immobili è un po' superato, devo dire, da alcune disposizioni fiscali recenti. Ma io, guardi, cioè, nel senso... Capito, io non le posso risolvere questo problema, denunci chi e non lo so, denunci chi le chiede dei soldi in nero, abbia pazienza, non lo so, non credo, certamente il problema di chi vuole comprare una casa è di trovare i soldi da anticipare, no? da mettere a conguaglio del mutuo, diciamo, questo è il problema principale, trovare cioè quei soldi già disponibili, subito disponibili, per poi accedere al mutuo. Credo che sia questo il problema, al di là della questione del nero o dei soldi puliti, che non dovrebbe essere nemmeno in discussione, Mauro. D'accordo, la ringrazio. Altrimenti ci spieghi meglio di cosa vuole parlare. No, io volevo semplicemente una sua opinione, nel senso, siccome sento parlare di piani casa, di incentivi per le giovani coppie, magari, non lo so, sarebbe meglio che... soldi dello Stato, i nostri soldi venissero investiti dando a chi deve investigare, a chi deve andare a cercare diciamo questi problemi, più mezzi e più possibilità, insomma. Va bene, grazie. Ciro, provincia di Foggia, buonasera. Buonasera a lei. Niente, volevo intervenire un po' su quanto riguarda la questione del Partito del Sud, che praticamente mi trovo d'accordo al 100% con quelle le sue idee, e cioè che ad un certo punto basta fondare un nuovo partito quando chi ha la possibilità può farlo attraverso gli partiti che già ci sono, e farsi valere all'interno di questi partiti. È vero che purtroppo ci sono delle forze all'interno di questi partiti che potrebbero impedire, però diciamo alla fine non è che uno vede spuntare l'ennesimo partito e di conseguenza avere fiducia di queste ulteriori nuovi politici, anche se sono gente già abbastanza navigata, di conseguenza potrebbe... Sì, guardi Ciro, lei affronta un argomento molto importante, che è quello della semplificazione del sistema politico. Qui siamo partiti dal fatto che un anno e mezzo fa, quando ci sono state le elezioni, si andava verso un bipartitismo. Adesso vogliono addirittura fare un partito del Sud, figuriamoci. La ringrazio. Sì. Felice da Brescia, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Io ho sentito una parte della trasmissione, ero in macchina, per cui ho preso un discorso a metà di qualcuno che analizzava gli stanziamenti per il Sud e giustificava il fatto che spesso questi stanziamenti andassero persi o robe del genere. Io sono meridionale, ho abitato diciamo metà della mia vita giù in Calabria, mi sono laureato, sono venuto al nord, ora abito a Brescia da quasi 20 anni, e come molti sono, non è che non mi piacesse vivere, non mi piacesse l'ambiente o la natura del sud, semplicemente me ne sono scappato perché dal punto di vista di vita e dal punto di vista lavorativo è impossibile raggiungere l'eccellenza o determinati livelli professionali. Adesso, riinnestandomi sul discorso dei soldi, degli stanziamenti per il Sud, io ho toccato per anni e tocco tuttora, perché sono in contatto con i miei amici che abitano sempre giù al Sud, so che ci sono due possibilità: o che lo stanziamento che viene dato per l'impresa viene dato direttamente a un'impresa che presta nome di qualche mafioso e già i soldi vanno direttamente in tasca alla mafia in quel modo lì, e questa è la prima possibilità. La seconda possibilità, che è quella minore, e che veramente ci sia un imprenditore che abbia la voglia, diciamo, di utilizzare effettivamente questi stanziamenti per potenziare la propria attività, per migliorare l'economia della zona, e in ogni caso ugualmente va in bocca alla mafia, perché la maggior parte sono vessati, sono sotto la continua pressa di mazzette, di robe varie. Quindi il problema del Sud è e sarà sempre quello lì, la mancanza di una volontà politica di risolvere questa situazione, tutto lì. La ringrazio, Felice. È tornato il momento di Cettola Qualunque, il Partito del Sud. La recente crisi politica richiede decisioni drastiche all'interno della coalizione. C'è fermento, c'è dibattito, ci sono proposte nuove. Bisogna rilanciare il Sud. Sarebbe anche ora. Io personalmente ho deciso di non perdere tempo e di formare un mio movimento politico. Ma va? Si chiamerà il Pilu delle Libertà. Applausi. Nome accattivante. Pute. La Calabria potrà così contare sul rilancio dell'economia. La regione ha già delle indubbie attrattive. I montagni e la costa, il mare e le campagne sono il fiore all'occhiello della regione. Colpisce però lo straniero in terra di Calabria, non solo lo scoglio e la sabbia, non solo la quercia e il bergamotto, ma anche il tipico pilastro di cemento armato e la folcloristica soletta catramata. Quale folcloristica? Non sono bellezze locali. Qui lo straniero avverte subito come lo scrosciante torrente si sposi perfettamente col placido scarico fognare abusivo così caratteristico. Con un odore e qui ci accingerei cazzo io. Domenico da Bari, buonasera. Buonasera. Prego. Niente, allora, in buona sostanza, sto seguendo un po' il discorso sul Partito del Sud. Fatto, diciamo, tenendo presente che i vari partiti, diciamo, storici, tipo Partito Comunista Italiano, Partito Socialista e quant'altro, si sono mistificatamente cambiati il nome, no? Anche la GAD, Grande Alleanza Democratica, che poi è diventato, mi ricordo che poi è diventato Partito Democratico, queste sono sempre le stesse persone. Per quanto riguarda il discorso del Partito del Sud, si sta cercando di fare la storica operazione di recuperare la Democrazia Cristiana. E addirittura. È tutto qui il discorso. Adesso lei la mette su un piano, lei la mette su un piano che francamente non mi sembra. Mi sembra un po'. Ma che c'entra adesso la Democrazia Cristiana? Insomma, non... Cosa c'entra? Beh, sono sempre il Partito del Sud, la Democrazia Cristiana. Ma insomma, non solo. La Democrazia Cristiana è stato un grande partito nazionale, non è stato certamente nazionale, solamente certo, però solo il Partito del Sud. Venivano tutte persone con l'accento meridionale. Ma no, lei semplifica molto. La ringrazio, Domenico. Siamo quasi in conclusione. Allora sentiamo Giuseppe da Milano, 30 secondi. Pronto, sono Giuseppe da Milano. Sì, 30 secondi, Giuseppe, poi dobbiamo chiudere. Solo per concludere, il Partito del Sud, la legge Moratti, che non puoi bere prima dei 16 anni, tutto perché la politica è lontana dalle persone, si inventano problemi, si inventano regole, quando in realtà c'è un Senato, ci sono i senatori, quindi il Sud è già rappresentato in Parlamento. Ecco, tutto per creare un polverone dei problemi reali, non se ne parla. Volevo solo dire questo. La ringrazio. Grazie. E col suo parere chiudiamo questa sera, ci sentiamo domani 18:30, ciao.